settimana, facendo il sabato, comunque dentro settimana c'è stato un tipo che ha detto che era portante della USIN. Queste sono a me cose che mi hanno riferito, però non sapete io, però l'amico che me l'ha riferito mi ha detto lì, guarda, hanno invocato a te che stavi mettendo la portante. Io dico solo una cosa, la che io metto la portante la dico, quando la metto la dico, però se devono ricordare che io quando metto la portante a Usin, a Cacciari non devo sentire niente, perché non si ascoltano, quindi che mi faccio i miei dubbi e sono certe cose che loro si illudono, non devono mai credere. Perché mi faccio i fatti miei, vado, nutro le frequenze che voglio, però guarda, io dico solo una cosa più, a sentire io le frequenze che io metto la portante, intervengo, e allora intervengo anche di brutto, queste sono le mie parole, poi chi vuole intervenire intervenga. Non so, non ti capisco Tony, ma cosa ci vuoi fare? Purtroppo gente diciamo poco corretta ce n'è per questa, non voglio usare altri temi, potrei dire vegliacca addirittura, potrei dire, però non so cosa dirti. Io so solo una cosa, che io non faccio male a nessuno, a me non mi fa male nessuno, a me non per questa, io ritengo che non mi abbia fatto mai male a nessuno, se poi qualcuno ha parlato alle mie spalle, che me lo venga a dire di persona, e così mi dovrà spiegare la motivazione per cui ha parlato in una certa maniera di me. Io, ripeto, non ho mai parlato male a nessuno, e non ci tengo, e non ci penso nemmeno lontanamente, di conseguenza, tutto questo, cosa vuoi che ti dica? Io ritengo che quelle persone che parlano in quel modo sono, o perlomeno che si comportano in frequenza, mettendo portante eccetera, sono dei vigliacchi e basta, tutto lì, Tony. Non so cosa dirti, tu sai benissimo come ti devi comportare e come devi risolvere questo problema, Tony. Dai, facciamo girare anche per Pierpaolo però, se no quello si stanca, se ne va e poi non è bello, dai. Avanti Pierpaolo, ci sei ancora. Siamo arrivati, Giulio, stiamo scendendo, ci sentiamo per un pochino, eh? Ah, vabbè, vi siete già trovati allora con Natalino, sì? Cappa. Ah, va bene, d'accordo, allora entrate quando volete, siamo qua, con Tonino di Usini o Antù, e dunque non è un problema, va bene? D'accordo, dammi risposta. Sentiamo fra un po', dai. Saluti anche a Tonino di Usini. Saluti anche a Tonino di Usini. Ok, se non ti ha sentito, ti faccio la ponte io. Grazie per i saluti a Tonino. Oh, Tony, ti sta salutando Antonio Bombolo, in compagnia di Natalino e anche di Pierpaolo, stanno andando a prendere un caffè insieme, non so se tu l'hai ascoltato. Avanti, Tony. Cappa, gli ascoltanti e nessun piedi con tutto, c'è stato un break, avanti prego, dove voleva entrare, un ringraziamento, avanti. Natale. Avanti chi è? Avanti che voleva entrare. Io non sento nessuno Tony, forse non, boh, non lo so, non sento nessuno. E ma comunque c'è stato un break come era sotto... Avanti. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare su questo canale? Evidentemente, se è stufata non vuole entrare. Comunque, tutto pronto e se... Tutto pronto, Tutto a posto, Tony. Sempre lavorando e tirando a campare. E tu, sempre fuori sei? Sì, vabbè, interessante lavorare. Allora, questa volta sei molto più vicino delle altre volte a casa tua, perché essendo a Porto Torres non è certamente come andare verso Urbia, sei molto ma molto più vicino. Interessante lavorare, poi la risalta intanto non ti spaventa più, vero? Ma per quello la distanza non è salita più, perché abbiamo incrociato di 100 e passa chilometri. E allora, sicché almeno così sei più vicino, va bene, meglio così, vabbè, magari quando finisci lì poi chissà dove andrai, in un altro posto dove inizia un altro cantiere e così via, e magari ci rispediscono di nuovo lì verso la Gallura o verso Urbia, in quella zona, chi lo sa, ma fregate le tonine, interessante è campare, è lavorare per campare, poi tutto il resto a noi lavoratori non ci fa paura niente, nemmeno il tempo brutto. A Giulio la promessa è stata promessa, direzione, come finiamo, posso tornare, direzione Olbia. Sì, che dice. No, te l'ho detto, perché so che questa impresa prende lavori soprattutto da quelle parti lì, ho capito. Allora già ho centrato la questione, tu lì. No, Giulio, non ti sei sbagliato. E appunto, perché l'impresa è sempre quella, no? Non è che cambia, magari questa volta gli è toccato un lavoro lì a Porto Torres e ti manda lì. Poi quando finisci lì, chiaramente poi ti manderà in un altro posto e chissà dove, magari probabilmente sempre a parte di Urbia, perché so che lì lavora molto questa impresa qui. Ah, beh, adesso dobbiamo finire, li abbiamo sino a maggio giugno. Aspetta, ah, ecco, io ho capito, sì, in quel periodo chiaramente c'è senz'altro più lavoro, ma comunque sai cosa ti dico? Quando arriva l'estate già diventa anche più facile viaggiare, perché le giornate sono lunghe, c'è meno freddo e tutte queste cose qua. E poi ripeto, come ho detto poc'anzi, a noi la fatica non ci spaventa, la distanza non ci spaventa, dunque si va a lavorare dove è possibile per guadagnare la pagnotta, Tony. Ma quello che mi interessa a me è lo stipendio, capito? L'importante è che ogni mese mi scorre almeno il stipendio. Per quello che mi aspetta, ogni 15 io lo aspetto sempre. Non dico che non ci sono problemi, non andare fuori adesso perché mi trovo a Porto Torres e poi magari che mi spostano e portano lì a Corso Olbia. A me quello che mi interessa è il 15 e boh. Certo, certo, è il giorno più bello del mese, perché ci sono i soldi dopo un intero mese di fatica e di sudore alla fronte. È chiaro che si aspetta con ansia il giorno di San Paganino, il giorno più importante. Tony, comunque, interessante avere sempre salute e lavoro, poi non ci preoccupiamo più di tanto. Ma se dico una cosa, che quello che voglio lavorare lavoro sempre, capito? Perché diciamo che a noi da qua nascono la zona del Sassaro, siamo in crisi di lavoro, non è tutto quello che è. Noi andiamo a Porto Torres e a Porto Torres stanno assumendo persone, perché il lavoro c'è. Grandi imprese, ci sono 4-5 imprese che stanno cercando un attore, roba del genere, ce ne sono, tu come lo, ce ne sono, quindi io voglio lavorare ancora, adesso il lavoro si trova lì nelle comunità di Sassari, capito? A Porto Torres c'è una, come si può dire, una versione di ricerca, dato di operai. Sì, tu sì. Beh, guarda, questo discorso lo stavo facendo la settimana scorsa con un amico, dice, io sto cercando, dice, un operaio, un muratore per farmi dei lavori a casa e non riesco, dice, a trovarne uno. Ma tutti quanti si lamentano che non c'è lavoro e io non riesco a trovarne uno. Quelli che trovo, tutti quanti mi dicono che sono impegnato, sto lavorando, sto facendo questo lavoro urgente, sto facendo questo, sto facendo quest'altro. Dice, ma non riesco a capire, mi ha detto questo amico, come mai, caspita, se c'è crisi di lavoro, quando tu vai a interpellare una persona, tutti quanti ti rispondono in questo modo. Ma no, non è vero che c'è crisi di lavoro, se tutti quanti sono impegnati, tutti quanti non sono al lavoro, e allora vuol dire che il lavoro c'è. Ma non lo so, a dire la verità non lo so. Io so solo, ad esempio, nella mia categoria c'è stato senz'altro un grande calo di lavoro, comunque meno male si va va avanti lo stesso, anzi forse si lavora anche meglio senza quegli impegni così opprimenti che uno può avere, tutto quanto proprio un lavoro che ti stanno prendendo quasi per la gola, no, e invece è meglio fare averlo sempre, però a poco, in modo che tu lavori serenamente senza preoccuparti più di tanto, capito, Tony? Allora io ti dico una cosa, prima il lavoro mi hanno detto che io non voglio lavorare in Olbia se non mi danno tutto. E non perché tu vai a lavorare in Olbia che prendi tutto, che ti pagano la tariffa, ti pagano un conto, mensa, trasporto e tutto. Una tariffa, quello non lo fare, solo lo sappiamo bene che sono 43 euro al giorno. Quale scatto prende 70 e passa io. E non ci vai. Il lavoro non lo trovi, sotto letto non lo trovi, sotto guanciale non lo trovi. Ognuno, ma il lavoro dove c'è? A portatore se adesso il lavoro c'è. Perché Olbia al lavoro è chiuso, perché sappiamo bene che la cosa non si può costruire. Allora, il portatore se piove il lavoro. Uno che ha bisogno di lavorare al lavoro, vai, lavora. Come lo fa? Se prende 50 euro al giorno, sono buoni, non sono fastidi, non sono da buttare. Questo sì, senz'altro, ma sai cos'è? La gente è abituata magari a vivere possibilmente senza fare niente, ma così non è che sta bene. Io dico solo una cosa, oggi bisogna valutare intanto il tempo che stiamo vivendo, cioè il periodo non molto brillante che stiamo vivendo, perciò quello che dici uno lo deve prendere, perché intanto se non lo prendi tu lo prende un altro e poi rimane senza, e poi come dice Proverbio, meglio assaggiare che morire di fame, o meglio rosicchiare sì, ma morire di fame no, mi sembra che la cosa più giusta sia quella, perciò qualcosina in meno, però è interessante andare avanti a lavorare, i sacrifici, l'ho detto, i lavoratori li hanno sempre fatti e si sa, devono sempre continuare a farli, poi quando ci saranno tempi migliori chiaramente ecco che si migliorerà a tutti quanti in generale. Ciao Giulia, dico una cosa, non è come prima il lavoro, nel 60, 70 e 80, si passa se non c'è di più. Perché adesso sappiamo bene, proprio il lavoro è in corso. Uno che ha bisogno, proprio che ha bisogno di lavorare, vai, lavora, dopo il lavoro si trova. Io vado a Olbia, però fa sempre. Io non ci credo in quello, io al giorno. Vado al lavoro, la sacca mia cosa. No, perché io vado dove io. La vita dove sto lavorando, ci sono 10 anni io, la vita che lavoro. A me, tu non mi capo, io vado. Io vado al lavoro. A me li prendo, mi trasporta e mi porta a casa. Certo, ma è così, in effetti è così, ma io dico questo, è un po' lo stesso discorso, a me mi capita per dire un lavoro buono, e lo accetto chiaramente, me ne capita uno meno buono, e lo prendo lo stesso, perché non lo deve prendere? Perché la gente deve mettersi in testa che l'operaio deve eseguire i lavori a seconda delle esigenze dei clienti. Se a te ti serve per dire un armadio, un armadio a mulo o qualsiasi altro mobile, ti faccio un armadio a mulo, ma se ti serve, tanto per fare un esempio, il bastone per lavare per terra, ti devo fare il bastone per lavare per terra, se no che discorsi sono, se no non sarei un artigiano, capito? Dico una cosa, le persone che sono adesso, io guarda, le conosco giù, guarda, io sempre... In 40 anni lui lavoro, lo cerca, che lo trova. In effetti è così, è la poltronista più che altro che che uno ha, che non riesce a togliersela di dosso, e non va bene, ecco. E uno deve lavorare a seconda di quello che gli si presenta, perché se no, cazzettina, allora uno, perché un lavoretto da niente non lo deve fare, no, lo deve fare lo stesso, perché? Perché devi ragionare in questi termini, quel lavoretto oggi, domani te ne porta uno grande, se tu invece quella persona non la segui solo perché è un lavoretto da niente, è lo stesso discorso tuo, se vai a fare una riparazione per Dio, un pezzo di intorno a qualche, quello glielo devi fare, perché? Perché un domani che cosa ha bisogno? Che fa fare tutta la casa intera, non si può pretendere che di fare solamente palazzi interi da intonaccare, ci sono anche delle riparazioni da fare, non ti sembra che sia così? Sono d'accordo con te, ma io ti dico una cosa, gente, che 40 anni fa, quando ne fai il lavoro c'era, lo trovavi, ed eri tranquillo, andavi e cercavi perché fai il lavoro c'era, perché si davano qualche cosa in più dell'impresa che stavi, dove stavi lavorando, è inutile. Più, e adesso stesse cose, per via non te ne fa, solo per farlo, capito? Perché ci sono momenti di questa maniera. Comunque, chi ha voglia di lavorare, il lavoro c'è, e lo vuoi cercare, lo trovi, come niente. Beh certo, Tony, certo, figurati, tu pensa solo una cosa, io ho una persona che lavora lontano da Sassari e tutti i giorni si fa 130 chilometri, 65 andare, 65 a tornare, ce l'ho io qua in famiglia mia, e c'è mia figlia che il lavoro l'ha trovato, è a tempio, e allora per questo non deve andarci, io non credo che deve andare, non lo so guio, e se permetti, caspita, il lavoro che si è presentato a tempio è un lavoro buono, e sei soddisfatto, ti mette in condizione di guadagnare bene, la mattina ti alzi presto, prendi e parti, e la sera rientri, anzi, diciamo che fa mezza giornata, e basta, alle due prende la macchina e ritorna a Sassari. E si capisce bene che a un certo momento, allora solo perché lontano non ci sarebbe dovuto andare, e soprattutto perché è una donna, no, il lavoro bisogna prenderlo dove ti si presenta, perché se non lo prendi è un'occasione persa e basta, sicché stasera a letto o durante il giorno o al bar o attaccato al baracchino non va bene, no, non va bene, uno deve darsi da fare, lavorare per poter guadagnare e campare, se no hai ragione tu, se non lo trovi vuol dire che sei un bel mandroni, ma un bel però. Perché non è, se non siamo bene, non trovi, viene su un bel. Ho aspetto per una canzona, la sono restata, che vogliono il lavoro dentro casa, il lavoro, non tu, devi riuscire pure. Se uno ha bisogno di lavorare, che mi dicono a me la chiave, che se ci conteggio non la chiave abbiamo giocato. E ci vai che ci va un altro. Ovvia, perché quant'è, come lo vale? È buono. Perché se vai a lavorare a conto di tariffa solo, 43 euro che prende un manovale, a conto di impresa, pagato di impresa, tariffa sindacale, 43 euro lorde. Dunque se te ne danno 50 è già un prezzo vantaggioso, cioè è già una paga vantaggiosa. Ma non sono tutti che hanno la voglia, Tony, il problema è quello, hai ragione tu. Il lavoro bisogna cercarselo e non aspettare che vengano offerti, perché intanto il principale non ci viene a cercarti nella maniera più assoluta, devi essere tu a smuoverti e alzarti la mattina e andare in giro per i cantieri o per i posti di lavoro a cercare e a chiedere di lavorare. Se no, quello, cosa vuoi, che il principale venga a casa tua? No, non è possibile, sono idee sbagliate queste, non si può dire di no. E vabbè, pazienza, evidentemente questa gente riesce a campare lo stesso anche senza fare niente, magari buttati così da un bar all'altro, a delle musiche, di un caffè di uno e dell'altro, capito? Perché questa gente vive di questi espedienti, non è che non ti credere che viva meglio, no? Vive solo e esclusivamente di questi espedienti e basta, capito, Tony? trova la madre, il padre, tutto là. Però una volta che ti trovi solo, sei costretto a, a cercare lavoro, perché guarda, dicono che la categoria, magari, parliamo della categoria della edilizia, che prende la verità, uno è pagato, un manovale prende tutto, uno è qualificato prende tutto. Perché la difesa? Uno lo prende, uno è qualificato, che prende sulle 1.500-1.700 euro, uno è già da qualificato, facciamo, vede due giorni, prende 1.700 euro, vede due giorni la tipo è 1.700 euro, uno vale che lavora, è solo, 43 euro, e arriva sui 900, 1000 euro in 27 euro. Cazzo, sono buono. Se lo prende quelli, cazzo, non ce ne sono. Certamente, sono abituati. Talmente, sono abituati che vivono in cosa, no? Al padre, al cuore della madre, e non vanno a, non vanno a lavorare per quella cifra. Non lo sono più. Certamente, cazzo. Vabbè, ok, secondo, il tuo padre, tua madre, guarda, io non saprei del piano. Pupio, avanti, chi è? Ciao, buonasera, Lara. Mi stavo ascoltando, ecco, io sono d'accordo con voi. Comunque, da parte mia, 28 anni che viaggio 4 volte al giorno. Già non credo, mi distrae. E per forza, perché hai voglia di lavorare, evidentemente, e il lavoro tu lo sai mantenere. Se fossi stato come certe persone che la pensano in un altro modo, che rimangono attaccate alla pensione, diciamo, della madre e del padre, e vivono sfruttando i genitori, allora il discorso è diverso. E ce ne sono tante di queste persone qua. Basta che abbiano un piccolo posto dove dormire la notte e poi non deve fregare di niente di nessuno. Perché? Perché sono mandroni, non hanno voglia di lavorare, proprio quello lì è il motivo, come sta dicendo Tolino. Perché io posso capire che ci può essere anche un periodo di crisi, di magra, però alla lunga, prima o poi, se uno insiste e continua a cercare il lavoro, lo trova di sicuro. E soprattutto bisogna accontentarsi, perché ripeto, come ho detto poc'anzi, il tempo che stiamo vivendo è molto ma molto difficile e pesante, dunque bisogna anche accontentarsi senza avere troppe pretese e lavorare, è meglio assaggiare e rosicchiare che morire di fame, non ti sembra già? E dopo questa gente qua, vecchiaia, lo già fa, diventa barbone. Il discorso è questo, oggi diciamolo chiaramente, il lavoro vabbè, ci può essere stato sicuramente un calo perché c'è stato, questo è fuori discussione, però diciamo che c'è stato soprattutto un calo di voglia di lavorare, ma un grande calo di voglia di lavorare da parte dei giovani che non ne hanno voglia nella maniera più assoluta, sono viziosi, forse perché hanno avuto tutto e perché vivono in famiglia e continuano a farsi mantenere. Il punto è questo, capito già? C'è Tonino qui con me, avanti Tonino per Gianni, doppio room. La riprendi io. Ok, hai da fare Tonino. Capito, Gianni, è così il problema, questo è il problema. La gente non ha gana, soprattutto non ha gana, quella che entra vuole avere uno stipendio da una babbo, non ne puoi avere, tu devi prima di tutto dimostrare fiducia al tuo datore di lavoro, poi i soldi arrivano. Questa è una teoria che mi ha sempre insegnato mio padre da quando ero ragazzo, dunque sono andato avanti in questo modo, poi ho fatto quello che ho fatto con i miei vieni ed eccomi qua all'età che ho e devo dire che ho sempre lavorato, sono 55 anni che sto lavorando, avanti o già? Ehi, già lo so, le cose sono diverse, non so, si lasciano andare. ciao già, buon lavoro allora. Ci sentiamo, ecco. Adesso tu ad esempio sei andato a lavorare di sabato, perché? Perché è la responsabilità di famiglia e ti piace vivere e non far mancare niente alla famiglia. In Alugrivia ci mancherebbe altro. Sarebbe brutto il contrario, in Alugrivia. Pensa un po', io avevo 11 anni quando ho iniziato a lavorare, ne ho 65 compiuti e sono 55 anni quasi che sono venuto, perché ne ho quasi 66 lavorando. Andavo a scuola, andavo e andavo al lavoro da bambino, piccolino, e non mi ha dato mai fastidio la fatica. Così è per Tony. No, viene gana, soprattutto non ce ne voglia, Tony. Sai, lì tu capo che ognuno fa lui, innanzi alla scena fa lui, con questo vai. E che è isso? E lo faccio di mandare. Oh, si è abbastanza meglio un poco, forse comprendo bene che sì, ma che non pare che non una cosa che ci sentite da seguiti. Ma perché la terra, amore? Sta a fare questa cosa, no? Come mi ascolti? Adesso sì, Tony, avevo una radio fortissima, bevi poc'anzi. Che microfono si userebbe? Ma è sempre la stessa modulazione giù, non ho collocato niente. Ho capito, vabbè, forse hai aumentato tu un po' la voce. No, perché la timbrica era diversa. Sì, sì, qualcosa già mi ricordavo, però era cambiata, perché la radio mi aveva fatto fortissima, ma forte veramente. Il doppio di come era prima, ti puoi immaginare. Ah, è sempre la solita, non ho cambiato niente, non ho toccato niente. Sempre la salute, l'MB più 5, 3 quarti e mezzo di coso e basta. Tutto lì. Sta andando bene, sei quasi Santiago 8, 7 e mezzo abbondanti, quasi 8. La radio è fortissima, forte, forte, forte. Ma non è quello, non è il magno, Tony. La salope, il magno, la salope è l'MV più 5. Non c'è altro, tre quarti e mezzo di uscita e basta, non c'è altro accenso perché non c'è altro, giù. Altro non ti posso dire. Ho capito, Tony, sta andando alla grande proprio, sta andando alla grande, no, nessun problema. Una bella radio chiara e un bel segnale, bello, bello proprio pieno, insomma un bel 7,5-8 pieno, veramente. Considerando che sia Usi, non sei certamente a un passo da casa, sempre da qui una ventina di chilometri buoni buoni ci sono, da dove abito io, perciò. Va benissimo così, Tony. Sì, scusa Tony, forse mi stanno chiamando da giù, che ho la porta chiusa, aspetta un attimino. Ormai io non ti voglio dire se ho 29 km perché siamo a 6-8 km e rosa. Comunque, dico in regola, chi vuole comprare, sto vendendo tutto antenna, 22 antenne, 95, un altro tipo di antenna con 24 radiali, S9, Amma International, HP 2001, SXC2200 della Mondial e altre cose pure, sul totale ne parleremo in verticale. Sì, sì, ho capito, Tony, se sento già faccio il tuo nome che stai vendendo e allora poi ti contatteranno, senz'altro. Tony, mi hanno chiamato laggiù, avevo la porta chiusa e mi sembrava che mi stessero chiamando, infatti avevo ragione. Ho aperto la porta di camera perché la casa mia è a più piani, no? E da giù dal salone mi stava chiamando mia moglie che è arrivato, mio fratello con mia cognata. Vabbè, Tony, mi dispiace, ci devo lasciare, dai, ci sentiamo un altro giorno magari, o forse domani. Io di solito, Tony, tu lo sai, tempo non ne ho durante la settimana, però il sabato sera, diciamo, soprattutto di sera, perché la mattina non molto, ma la sera e la domenica, sabato sera e la domenica, se qualcuno qualcuno mi chiama, senz'altro rispondo, perché l'apparecchio rimane sempre acceso qua, dunque, però durante la settimana no, ripeto, perché non ho tempo, non accendo nemmeno, anzi non lo guardo nemmeno il baracchino, dunque non mi potrà mai sentire nessuno, o difficilmente che mi sentiranno, può capitare un giorno, sì, così, che magari un po' più di tempo, però difficilmente durante la settimana accendo. Ma poi Tony, mi dispiace lasciare, sai, c'è mio fratello che è arrivato con mia cognata e ci sentiamo nel prossimo. Mi ha fatto piacere parlare con te, Tony, eravamo un sacco di tempo senza sentirci. Alle prossime, Tony, ciao, alla grande, sempre tu. Ciao Giulio. Se sento, guarda, non ci sono problemi, se sento qualcuno che è interessato ad acquistare il baracchino, il tuo baracchino, io gli faccio il tuo nome, guarda, cerca Tonino in frequenza, lo puoi trovare, suppongo, il sabato e la domenica, perché durante la settimana lui lavora, perciò basta chiamare e senz'altro ti potrai mettere in contatto. D'accordo, Tonino, senz'altro, non ci sono problemi, se sento, ripeto, farò senz'altro il tuo nome e dirò che tu stai vendendo. Ci sentiamo, Tony, ciao, dai, che scendo giù adesso perché c'è mio fratello e mia cognata che sono venuti a farmi visita e naturalmente devo andare giù. Ci sentiamo, ciao Tony, alle prossime, ciao, grazie per il QSO, ciao. Ciao Giulio, se qualche non mi interessa posso dare anche il mio numero di telefono, il mio cellulare, anche in diretta. Se prendo la penna io intanto non segno il numero di telefono, così posso dare addirittura il numero del telefono, così ti contattano direttamente tramite il telefono. Fammi prendere la penna e me lo segno, eh? Ok Giulio, tanto a me il cellulare problemi non mi interessano, vedi che vado per via essere io non vengo il cellulare, non interessa, via, vado, disvago e vedo tutto. Aspetta un attimo, Torino. Dimmi tutto, guarda, è 348-23. Allora, 348, aspetta, è 34. 348. Poi? 23. 23, poi? 71. 71, poi? Ok, allora 348 23 71 5 9 4, e questo Tony. Ciao miracolo, vendo tutto per questo. Non ci sono problemi. Tutto coppa, tutto originale. Roba da chiarire, capito? Capito? Ciao Giulio. Ok, ciao Tony, sono io che ti sto chiamando, che ho chiamato, dai, non risponde nemmeno, perché sono io che ho fatto il numero per vedere se era preciso. D'accordo Tony, ci sentiamo, alle prossime, ciao. Ciao Giulio, ho sentito la tua cosa, la tua musichetta. Ok, così adesso hai anche il mio numero, guarda, adesso ti è apparso sicuramente il mio numero, te lo puoi salvare e così hai anche il mio numero, Tony, ci sentiamo. D'accordo, ciao Tony, alle prossime, ciao. Ciao Giulio, mi ha fatto sapere, mi ha fatto piacere sentirti perché ero sempre venuto sentito. Molto piacere Giulio, saluti a tua famiglia e alle prossime. Ciao ciao, stai bene. Ok Tony, ti ringrazio, senz'altro anche a me ha fatto piacere, non ci sono dubbi. Se dovessi capitare qualche giorno lì dalle parti di Usini, che ti faccio uno squillo adesso che ho il numero, così poi se è possibile ci possiamo vedere di persona. D'accordo Tony, ciao, alle prossime, ciao ciao. Ciao Giulio!